Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. 7:35 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno nel weekend su Radio 24. Cominciamo tra pochissimo con una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al GR delle 8, 349-238-6666 per i vostri sms, anche su WhatsApp, la pagina Facebook Si può fare, trattino Radio 24. Se volete commentare quello che sentite c'è anche l'account su Twitter, chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo, vai! Allora, quasi ovunque su tutti i giornali principali le notizie che si rincorrono nei titoli di prima pagina sono quelle legate agli echi delle elezioni in Gran Bretagna, con questa situazione di stallo, nel senso di vittoria, ma una vittoria minorata da parte della leader dei conservatori, Theresa May, e analogamente la situazione anche in Italia dopo la settimana che ha segnato il passo falso, il fallimento a questo punto di ogni trattativa di riforma elettorale e quindi diciamo anche politica, anche per quanto riguarda l'Italia. Questi sono i principali argomenti sui giornali di oggi, a parte poi la bella nomina di Orfeo direttore generale della RAI e altre quisquiglie, come per esempio le intercettazioni che arrivano dal carcere, dove un boss di Cosa Nostra, come sapete Giuseppe Graviano, avrebbe tirato in ballo, chissà se consapevole di essere intercettato oppure no, Berlusconi, e ancora questa vecchia questione dei rapporti tra Berlusconi e la mafia, cioè dell'utile del resto in carcere per una condanna su concorso in associazione associazione mafiosa, sapete, concorso esterno in associazione mafiosa, e questo è un altro dei titoli: Stato mafia, il boss in cella, Berlusconi chiese aiuto, tanto per dirla subito, su Repubblica. Ma cominciamo con il Corriere della Sera: partita chiusa, voto nel 2018, Renzi, legge elettorale, sono con il sì di tutti, Di Maio, la riforma andava bene. E qua ci sono anche subito due interviste a Renzi e a Di Maio che andiamo tra poco a vedere sul Corriere, anche se bisogna anticiparlo, dirlo, continuano a rinfacciarsi l'uno sull'altro il fallimento di questo compromesso sulla legge elettorale. Certo è che insomma, è buffo, perché se, insomma, non è stato votato solo un emendamento, cioè è stato votato un emendamento, non è che si è crollato il mondo. Quindi diciamo, se ci fosse una totale sincerità da dire da parte di sia del PD che del Movimento 5 Stelle sulla volontà di portare avanti questa trattativa, basterebbe riprenderla in mano, perché in fondo è stato votato solo un emendamento. Ma sapete che in politica non è mai chiaro quello che appare, non è mai chiaro assolutamente. Vabbè, poi stesso diciamo argomento, La Stampa, legge elettorale, il Movimento ci riprova con Berlusconi, il Movimento 5 Stelle. Qua c'è quest'altro taglio: il Movimento 5 Stelle e Berlusconi sperano nel Colle per resuscitare la legge elettorale. Da qualche parte Renzi dice che questa non era la legge elettorale del PD, semmai era la legge elettorale che conveniva agli altri alleati, e quindi secondo il taglio della Stampa Movimento 5 Stelle e Forza Italia ci starebbero in qualche modo provando. Andiamo a vedere rapidamente invece Repubblica, da un taglio politico diverso: la sfida di Pisapia a Renzi, primarie di coalizione, le condizioni di campo progressista, ci sono leggi da salvare in questa legislatura. Pisapia, lo sapete, ha detto a Renzi: sì, alleiamoci pure, però intanto questa offerta che arriva all'indomani della sconfitta, del fallimento della trattativa elettorale, che prefigurava coalizioni probabilmente diverse, grandi coalizioni al centro, adesso ci vieni a dire che ti vuoi alleare con noi, facciamo le primarie del centro-sinistra e vediamo chi le vince. Cioè, Pisapia in qualche modo sfida Renzi, questa potrebbe essere una novità nel campo del centro-sinistra. Ma andiamo rapidamente al discorso elettorale e vediamo l'analisi che ne fa Renzi in questa intervista di Aldo Cazzulli sul Corriere, che gli dice: ci sono stati franchi tiratori nel PD, 6 o 7 su 300, risponde Renzi. I grillini invece si sono mostrati attendibili sulla legge elettorale, come lo sono sui vaccini o sulle scie chimiche, e pensare che una parte della classe dirigente li considera interlocutori affidabili. Quindi l'affondo di Renzi ormai è un'ossessione contro i 5 Stelle, un'ossessione nel senso che anche questo paragone tra il voto sulla riforma elettorale e le scie chimiche o i vaccini è un attacco, no? A chi si riferisce, domanda Cazzullo a Renzi, a una parte dell'establishment di questo paese che liscia il pelo ai populisti, mentre nel resto d'Europa si fa argine contro di loro. In Inghilterra l'UKIP sparisce, in Francia Macron prende il 60% al secondo turno perché è un baluardo contro il populismo, in Italia il PD è la diga contro i populisti, chi piccona la diga mette a rischio il paese. E questo è il nuovo mantra renziano: noi contro il populismo a 5 Stelle. Ancora sulla legge elettorale, quindi non si farà. Se si fa, risponde Renzi, deve avere il consenso dei 5 Stelle e di Forza Italia. E poi ancora, una legge c'è già, quella uscita dalla sentenza della Consulta. Tutti sanno che il modello tedesco non era il nostro, ma sarebbe stato positivo per il paese avere regole condivise. Non è andata così. Due pagine più avanti, Di Maio, Luigi Di Maio, dice cose specularmente opposte. Stavamo cercando di approvare una riforma elettorale importante. Chi oggi ci accusa di sabotaggio è proprio chi l'ha sabotata. Il Partito Democratico temeva di non avere i numeri, questa è la spiegazione di Di Maio, temeva di non avere i numeri il PD per evitare il ritorno alle preferenze. Quindi un altro emendamento che c'era da alcuni parlamentari di sinistra sul ritorno alle preferenze, e allora dice Di Maio ha fatto saltare direttamente il tavolo il PD sul Trentino Alto Adige. Ci sono margini per riprendere questa trattativa? Non sono possibilista, perché tra i Dem ci saranno Orlandiani, Emilianiani e via con le correnti. I margini non esistono. Parliamo col capogruppo del PD e il suo partito, che deve virare da una parte, in realtà poi non vira. L'accusa che Di Maio rigira al Partito Democratico di essere scisso al suo interno e quindi di non garantire compattezza poi nei voti parlamentari. Questo è quello che sicuramente è successo, perché oltre ai voti compattamente a favore dell'emendamento del Movimento 5 Stelle, come ormai sanno tutti, mancavano all'appello altri voti, soprattutto quelli del Partito Democratico, che da solo alla Camera ha una quasi maggioranza, quindi teoricamente avrebbe potuto sostenerlo quel voto. Una notazione, una curiosità: il referendum sull'euro, che fine ha fatto? La domanda di Massimo Franco a Di Maio sulla questione dell'euro. Il tema è semplice, dice Di Maio: se andiamo al governo nel primo anno non lo potremo indire. C'è una parziale rettifica, cambio di posizione di Maio del Movimento 5 Stelle sulla questione dell'euro. Sentite qua: non lo potremo indire perché c'è una lunga procedura costituzionale da seguire, ma in quel periodo porteremo ai tavoli europei i nostri temi fondamentali. Spero che l'Europa ci risponda con segnali chiari. Sulla moneta unica faremo una consultazione a seconda dei segnali che riceveremo. Ma per uscire dall'euro, come avete detto in passato, se le cose restano così, sì, ma spero che nel frattempo le cose cambino. Quindi non è più chiaro se il Movimento 5 Stelle a queste condizioni si è interessato a uscire dall'euro, a proporre l'uscita dell'Italia dall'euro. Un passaggio politico e poi lasciamo questa parte di rassegna, perché quello che potrebbe essere una parziale novità è questa sfida di Pisapia a Renzi, che lo invita a fare primarie di coalizione su Repubblica, ampio spazio. Ora vuole l'unità, dice Pisapia. Bene, solo se facciamo le primarie, perché dice Pisapia, sono per il massimo dell'unità, ma non si può fare un'apertura adesso, si riferisce a Renzi, dopo mesi in cui abbiamo cercato un'alleanza e dopo una sconfitta su una riforma elettorale che presupponeva coalizioni diverse, perché subito dopo diciamo, il passo falso, la caduta della trattativa della riforma elettorale alla Camera, Renzi ha aperto appunto al movimento progressista di Pisapia. E Pisapia dice sì, però ci dovevi pensare prima in qualche modo, e poi lo invita alle primarie di coalizione, perché in fondo i gazebo sono l'orizzonte indicato da mesi per evitare larghe intese con Berlusconi, solo così potremo costruire una coalizione ampia, unita, capace di governare. Adesso tocca a Renzi decidere se far diciamo, partecipare col suo Partito Democratico a queste eventuali primarie di centro-sinistra, che sarebbe una riedizione di quelle che diedero il via libera poi a Prodi diversi anni fa. Traffico 349-238-6666. Ferkam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Ferkam.com vi presenta. E allora, eccoci qua, 7:48 minuti, 349-238-6666, se volete commentare quello che state sentendo, stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa. E allora, diamo un'occhiata, esaurita la vicenda post fallimento della legge elettorale in Parlamento, esaurito questo capitolo politico italiano, vediamo altri titoli su una serie di altre notizie, per esempio... Beh, c'è tutta la parte su Londra che adesso apriamo. Londra, caos, voto, sterlina in caduta, è il principale titolo del Sole 24 Ore. Si compra il negoziato su Brexit, Bruxelles, non cambiano i tempi dell'uscita. May perde la maggioranza, ma nel governo conferma i ministri chiave. Il successo di Corbyn, i mercati che adesso temono l'instabilità, i commenti affidati ad Adriana Cerretelli sul fronte Europa, se l'Europa sceglierà la strada del realismo, invece l'altro commento sul filo più londinese, la fune della May e l'equilibrio da trovare, di Leonardo Maisano, che inizia così: nelle urne di Londra non è morta la Brexit, ma ci ha finalmente lasciati l'ideologia della Brexit con tutto l'armamentario teorico che l'accompagnava. Il più evidente impatto globale delle elezioni in Regno Unito nasce dalla bocciatura, oltre ogni aspettativa, del progetto di Theresa May, a caccia di un plebiscito per giocarsi liberamente il divorzio anglo-europeo, che annunciava di volere hard, anzi estremo, ha fallito. E questo sul Sole di oggi. Tra poco vediamo anche un po' un'analisi, per esempio, del voto, ma poi vediamo altri titoli, per esempio Libero sceglie di occuparsi di fisco, come spesso accade. Stato strozzino e ladro, non paga 66 miliardi alle aziende. Renzi, quando si insediò nel 2014 a Palazzo Chigi, giurò che avrebbe saldato i debiti con le imprese fornitrici della pubblica amministrazione, ma in 3 anni non ha onorato la promessa e il rosso delle istituzioni è sempre più alto. E poi ancora Libero fa questa notazione sulle elezioni amministrative di domenica. Domani si vota in 1000 città, ma che noia, nonostante l'importanza dell'appuntamento, poco entusiasmo dei media. E devo dire che Libero in questo caso ha ragione, perché i giornali, la televisione, cioè, non hanno seguito moltissimo questo appuntamento elettorale, che riguarda magari non città di primo piano, non ci sono dentro le solite Roma e Milano, ma si vota a Genova, si vota a Verona, a Padova, a Parma, a Palermo. E va bene, tant'è. Invece, a proposito della notizia che vi ho letto prima della pausa, le intercettazioni a carico del boss Graviano in carcere, che tirano in ballo Berlusconi, il giornale fa questo titolo e dice: arriva il mafiellum, agguato sulla legge elettorale, fango giudiziario a orologeria, un capomafia accusa Berlusconi proprio quando si doveva votare il Tedeschellum. Il commento su questo affidato ad Alessandro Sallusti. Per quanto riguarda le notizie, cosa c'è? C'è che appunto Graviano che si trova in carcere per una condanna per l'omicidio di Don Puglisi, in carcere da alcuni anni, parlando con un suo interlocutore intercettato, chissà se sa di essere intercettato, perché i boss mafiosi lo sanno che spesso questo gli accade, ma insomma la frase in questione è questa: Berlusconi mi ha chiesto questa cortesia, per questo c'è stata l'urgenza di puntini puntini, lui voleva scendere in politica, poi però in quel periodo c'erano i vecchi, lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa per i pubblici ministero di Matteo Tartaglia, Del Bene e Teresi, che hanno intercettato il boss nel processo Stato Mafia dal febbraio del 2016 all'aprile del 2017, cioè recentissimo. La bella cosa non sarebbe il sostegno elettorale a Forza Italia, ma la stagione delle stragi che iniziò con la morte di Falcone. E questo è quello su cui stanno lavorando i magistrati, ma ovviamente Berlusconi fa sapere, spazzatura per screditarmi a due giorni dalle elezioni. Velocemente sulla Gran Bretagna, l'analisi del voto che mostra una, per esempio dal punto di vista territoriale, una Inghilterra quasi compattamente a favore dei con una preponderanza dei conservatori, ma con delle macchie rosse che sono quelle dei laburisti, interessanti perché sono nelle zone per esempio industriali di Liverpool e Manchester, ma anche e soprattutto nella capitale Londra, che ha votato a favore di Corbyn. Oppure il ritorno alle elezioni, al voto dei giovani, con una, un movimento che gli analisti chiamano Youth Quake, cioè il terremoto dei giovani che sono tornati a votare. Chi si laurea oggi termina in rosso di 40.000 sterline a causa dell'introduzione di rette universitarie da parte di una generazione che ha studiato gratis. I giovani hanno incassato il costo della loro apatia durante il referendum sull'Europa, ma hanno imparato la lezione e hanno fatto sentire la loro voce votando, secondo queste analisi, primariamente, prioritariamente per Corbyn. Prima di chiudere volevo lasciarvi sul Venezuela, perché quanto abbiamo? Abbiamo 30 secondi. Un reportage sulla stampa sul Venezuela, dove vanno avanti dopo 70 giorni di protesta, 67 vittime, l'ultima è Neomar Lander, aveva solo 17 anni, secondo la polizia stava maneggiando un'arma artigianale, ma invece per l'opposizione sarebbe stato bersaglio di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. La 67esima vittima in 70 giorni in Venezuela, dove vanno avanti le proteste per varie ragioni che adesso non c'è tempo di ricordare. Ricordiamoci però ogni tanto del Venezuela. Giornale Radio, come si può fare? Ci troviamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, so don't stop. E 18 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, eccoci qua, 800 24 00 24, vi aspettiamo anche questo sabato mattina per stare insieme, per commentare tutto quello che sentite, per stare con noi, per giocare insieme a noi. E, beh, insomma, questa settimana siamo partiti da questa notizia di Madrid, dove, sì, signori, beh, insomma, come vogliamo chiamarlo, un eccesso di divietismo, di garantismo, di buonismo, non lo so, no, buonismo no. La sindaca di Madrid ha fatto un invito a tutti i maschi in particolare, che vanno sui mezzi pubblici a non sedersi a gambe aperte per non molestare il vicino di mezzo pubblico. Direi quasi più la buona educazione fatta legge, sì, questa sì. È la questione, nel senso che sappiamo tutti che è buona educazione non sedersi con le stravaccati, esatto. Con le gambe spalancate. Però ci mancava l'ordinanza. Esatto, e loro hanno anche una parola che è bellissima, hombre despatarrado. Despatarrado. L'uomo despatarrado, proprio che è spatasciato, direi, su i seggiolini della metropolitana con le gambe larghe. Pensavo che fosse più una questione perché occupassero più posti, invece sostanzialmente è la questione che potrebbe essere vissuta come una molestia, invadere lo spazio della persona altrui. Che ti è di fianco, in che sia donna, modo che sia anche uomo. A provocare. E siccome, esatto. Come voi sapete, noi siamo sempre in prima linea sulla frontiera dei nuovi diritti, delle nuove iniziative, di nuove ordinanze, di tutto quello che volete, però ci chiediamo, questa è una delle cose che vi dà più fastidio, per esempio sui mezzi pubblici? Cosa vi dà fastidio? Esatto, di che più? Cosa vorreste vietare, diciamo, se foste il dittatore dello Stato Libero di Bananas, direi, cioè che potete fare qualunque tipo di legge, potete dire il deodorante è obbligatorio su tutti i mezzi pubblici, per esempio, piuttosto che è vietato mettersi le dita nel naso, oppure se parli ad alta voce nel telefonino hai una multa di 42.000 euro. Ecco, quali sono le vostre cose che vi danno più fastidio, per le quali vorreste, diciamo, scherzosamente mettere un divieto, mettere una legge, anche una sanzione. 800 24 00 24. Invece tra poco parliamo di nuovo di vaccini con le strade scelte dalla regione Lombardia, che prima ancora che il governo mettesse un decreto con l'obbligo di 12 nuovi vaccini ha trovato una strategia che si sta rivelando vincente, una strategia meno sull'obbligo ma più sul dialogo. Domani c'è una manifestazione, tra l'altro, quindi ci sono ancora tante, vedremo quante persone, famiglie non convinte che continuano a in qualche modo a criticare, a contestare questa obbligatorietà vaccinale. Io le fatte vaccinare tutte le mie due bambine, lo dico, però insomma di questa cosa si può discutere, si può discutere, non è che siccome uno è a favore dei vaccini non si può discutere dal punto di vista di ma ci mancherebbe altro. E soprattutto forse c'è anche un limite, nel senso che uno dice va bene i vaccini, ammetto i vaccini, quelli per le malattie più pericolose, però magari la pertosse, nel senso che sennò fra un po' dovremo vaccinarci anche non lo so, per il prurito. Allora, le notizie sono queste. Dopo il decreto del governo sulle vaccinazioni obbligatorie, che a questo punto in Italia salgono a 12, un decreto che, come sapete, nasce dal calo delle coperture vaccinali, che sono scese in alcuni casi preoccupanti come la poliomielite, ma anche il morbillo, sotto livelli considerati di guardia. I livelli considerati giusti sono un 95% di copertura vaccinale, ma in Italia, in alcune zone d'Italia, siamo sotto l'80%. Quindi però non si fermano i movimenti e le proteste antivaccino. Infatti domani c'è una manifestazione nazionale annunciata a Roma, vedremo quante famiglie saranno, quali saranno le parole d'ordine di questa manifestazione. Noi salutiamo l'assessore al welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Perché dunque la strada scelta dalla regione Lombardia, prima ancora che ci fosse questo decreto, già si discuteva comunque di ripristinare e estendere in qualche modo l'obbligatorietà dei vaccini, però è una strada basata sul coinvolgimento in particolare dei pediatri, ai quali avete consegnato le liste dei non vaccinati, invitando ad aprire un dialogo con le famiglie, a parlare, a capire le motivazioni e a spiegare che invece il vaccino è importante. E questa strada ha portato, lo ha annunciato lei qualche giorno fa, dei buoni risultati. Quali? Ce le spiega, assessore? Sì, noi siamo partiti dai bambini del 2014 che non avevano fatto l'antimorbillo, abbiamo individuato i 25.000 che non erano stati vaccinati, abbiamo consegnato ad ogni pediatra l'elenco dei bambini con dei loro pazienti, insomma, vengono vaccinati con numeri di telefono, e dopo un mese abbiamo avuto un riscontro molto positivo perché il 10% di questi è stato vaccinato, quindi un'azione proattiva del pediatra si è risultata particolarmente efficace. Stiamo parlando di 2000 bambini, giusto? Quindi 2000, numeri importantissimi. Perché diciamo anche una cosa, no? Che è stata un po' forse sottovalutata in questo muro contro muro tra chi giustamente dal mio punto di vista, come la comunità scientifica e i medici ritengono necessario l'obbligo di vaccinare, e invece quelle minoranze di persone che però sono attive nelle loro convinzioni, che ritengono in qualche modo che ci debba essere una libertà di vaccinarsi o meno. Spesso c'è una categoria che non viene considerata, le persone che non si vaccinano per ignoranza, per mancanza di informazioni reali, per capacità di persuasione del medico, perché magari c'è una situazione di abbandono in famiglia, anche di degrado sociale. Non... O addirittura che pensano che bisogna pagare il ticket. Esatto, e su questa categoria invece una strategia di dialogo più persuasiva da parte dei pediatri e dei medici di base può funzionare meglio, no? Addirittura forse di inasprire sanzioni o di prevedere ulteriori obbligatorietà. Assessore, che ne pensa? Sì, noi da sempre, io da più di un anno che faccio l'assessore, appena insediato mi sono posto il tema della informazione, della portare le famiglie a essere consapevoli e convinte della importanza dei vaccini. Abbiamo messo in campo un sito che si chiama vitivaccini.com, una campagna che era informarsi bene non fa male, no? Agire sull'informazione. Devo dire che io condivido la posizione del governo, perché si era passati i limiti di guardia su un atteggiamento, consentitemi, lassista un po' complessivo, perché anche da parte dei pediatri, che da ricerche fatte anche da noi si è rilevato essere per circa il 70% delle famiglie il punto di riferimento, non c'è stata in questi anni quell'atteggiamento così efficace nel parlare con le famiglie. Ahimè, voglio dire, sarò stato sfortunato io, ma più di una volta ho trovato delle mamme che mi hanno detto: ma sai, io sono andato dal mio pediatra per capire se dovevo vaccinarli o per avere informazione, sì. E questi mi hanno detto: ma faccia lei, veda lei cosa vuol fare, no? E tutto questo probabilmente ha incrementato poi quella paura, quella ritrosia e quel non vaccinarsi, che oggi ha raggiunto dei livelli. Anche perché arrivano messaggi troppo contrastanti: se il pediatra ti dice faccia lei, poi dopo il governo stabilisce che c'è un obbligo, allora uno dice: ma decidetevi, mettetevi d'accordo. Soprattutto dopo uno apre internet e legge delle cose terribili. Ma una cosa che le volevo chiedere è come si coniuga il metodo lombardo, lo chiamo, che mi sembra molto sano e che ha portato degli ottimi risultati, ovvero far sì che i pediatri parlino con le famiglie e gli spieghino il motivo per cui è saggio vaccinarsi, con invece l'obbligo ministeriale. A questo punto non serve più il metodo lombardo? No, noi continueremo assolutamente, perché guardi, l'obbligo c'è, ne daremo corso, durerà probabilmente un po' di tempo, ma il concetto vero è radicare nella comunità questo valore, perché quello di ciò prima il lassismo era dovuto dal fatto che alcune malattie non ci sono più da tempo. Allora, io non sono un esperto, si sentivo parlare di pertosse, ma la pertosse non è la tosse, è una malattia infettiva che può creare dei grossi problemi. Però è chiaro che noi la pertosse non l'avevamo più, il morbillo per noi era un ricordo lontano, e quindi le famiglie a un certo punto si dicono: ma il pediatra si dice faccia lei, queste malattie non esistono più da noi, qualcuno mi parla di rischi dei vaccini, ma perché li devo fare? Invece è importante capire che proprio perché abbiamo vaccinato tutta una serie di le generazioni, oggi possiamo guardare con distacco, ma se allentiamo non vaccinando rischiamo che tutto questo torni. Quindi è un valore, quello della vaccinazione, che deve essere insito dentro la comunità e dentro ognuno di noi. Senta, certo. Qualcuno tra l'altro voluto anche sottolineare che in questa questione del calo delle coperture vaccinali c'è anche un po' un indebolimento, qualcuno dice, di alcuni aspetti della sanità pubblica tradizionale, come i consultori, i centri vaccinali, i presidi comunali, insomma l'offerta di salute pubblica, anche per chi magari ha meno mezzi a disposizione, come dicevamo prima, ha delle situazioni relazioni familiari meno solide, meno sicure, eccetera. C'è anche questo, cioè bisogna stare attenti a mantenere questi presidi per tutti, perché sono quelli poi attraverso cui passa, per esempio, anche un dialogo e un'informazione corretta sulla questione dei vaccini. Sì, certo, devo dire che almeno per quanto ci riguarda questo calo non c'è stato. Noi mandiamo a casa a tutte le mamme al compimento del primo anno, per esempio, dei bambini una lettera dicendo: guardi che deve portare suo figlio a vaccinare, e questi sono quelli obbligatori e questi sono quelli, diciamo, raccomandati e gratuiti, no? E indicando i vaccini, tra cui anche la meningite C da qualche anno, per dire. Cioè, e quando le mamme non rispondono in Lombardia, ma questo succede da qualche anno, c'è un'ulteriore telefonata e chiamata della parte dell'ASL per cercare di capire le motivazioni. Poi è evidente che fino ad oggi, di fronte a una insistenza nel non vaccinare, non c'era un'azione particolarmente forte. Io credo che questa iniziativa, invece di coinvolgere i pediatri in prima persona per convocare anche le famiglie che hanno scelto, o anche magari non si sono rese conto, non hanno scelto di vaccinare i loro figli, sia importante, perché insomma la comunicazione, come diceva lei, che si riceve a casa a volte è una comunicazione un po' asettica, certo, con un linguaggio anche medico, burocratico, che può può lasciare chi non ha gli strumenti per comprendere, può lasciare freddo, può lasciare lontano, uno può anche non accorgersi dell'importanza di questa comunicazione e magari non vaccina, come dicevamo, i figli per ignoranza più che per una decisione. Senta, assessore, una invece informazione di servizio, chiariamo quali sono i bambini che rientrano nelle nuove obbligatorietà, cioè nei 12 vaccini, perché si sente in giro dire: ma mio figlio che ha un anno, ha due anni, li ha già fatti, ne ha fatti 9, ne ha fatti 10. Anni o di vaccini? Di vaccini. Ecco, appunto. Allora, i 12 vaccini sono solo coloro che sono nati nel 2017. Quindi dal 2016, i nati dal 2017 in avanti rientrano nella obbligatorietà, sì, dei 12 vaccini. Sì, chi è nato prima, se è in regola, sì, con i vaccini di prima, è già a posto. Certo, assolutamente. Non c'è, ma guardate, la cosa migliore adesso, entro il 10 settembre in tutta Italia, è fare solo l'autocertificazione, no? Senza andare a correre nelle ASL o nelle ATS per avere i certificati. Dopodiché recuperate nelle strutture sanitarie il certificato vaccinale o consegnate quello che avete a casa, e sarà le strutture a verificare se ne è sfuggita qualcuno, sono già state fatte tutte, e nel caso vi richiamerà. Quindi non c'è né correre a fare i vaccini guai rispetto a chi li ha già fatti, né tantomeno porsi in ansia rispetto a, ecco, oddio, forse me ne sono dimenticato qualcuno, ecco. Ci penserà la struttura pubblica a verificare e a mettervi in regola. Anche perché poi con si può, appunto, fino al 10 settembre con l'autocertificazione, poi c'è tempo fino al 10 marzo, se ho capito bene, per vaccinarsi, esatto, effettivamente. Esatto. Sì, ma guarda, per avere, cioè, entro il 10 settembre l'autocertificazione di averli fatti o una richiesta formale alla ASL di fare le vaccinazioni, basta una mail. Dopodiché ci sarà un piano vaccinale che magari dura nel tempo, anche perché le vaccinazioni non si fanno tutte nello stesso momento, quindi non è che ci si concentrerà perché vanno fatte entro il 10 marzo. La struttura pubblica farà un piano vaccinale e uno deve portare soltanto quel piano vaccinale con le varie scadenze. Senta, un'ultimissima cosa. Domani, abbiamo detto, c'è una manifestazione a Roma dei movimenti cosiddetti Free Vax. Cosa si sente di dire alle persone che saranno domani in piazza? Che cosa ne pensa di queste persone e che tipo di messaggio personalmente lei manderebbe a dire? Che bisogna abbassare i toni. Mi sembra che siamo arrivati a una situazione di fanatismo basato su un approccio estremamente superficiale e non serio e approfondito. E anche noi che eravamo per l'informazione ci rendiamo conto che di fronte a questo forse l'obbligatorietà non è così sbagliata, perché quindi non è che siamo alla nazionale dove siamo tutti allenatori e decidiamo chi deve giocare e punta. Qua stiamo parlando di scienza, stiamo parlando di vaccini, stiamo parlando della salute delle persone. Quello che mi lascia inquieto è che di fronte alla libertà di vaccinare, ma allora corrisponde alla non volontà di vaccinare. Beh, non volontà di vaccinare vuol dire esporre il proprio figlio e la comunità, cioè quei bambini che sono immunodepressi e non possono vaccinarsi, a dei rischi. diritti, allora se mi vengono a chiedere, cioè se le richieste fossero vogliamo una verifica più attenta sulla, sui singoli bambini, se vogliamo più farmacovigilanza, io penso che un dialogo si potrebbe aprire, ma bisogna non scendere in piazza, ma lavorare serenamente, per esempio nei confronti del Parlamento per il decreto, nei confronti delle regioni. Ma quando vedo persone che scendono in piazza con i cartelli con scritto Viva Amer, che è quel pseudomedico che diceva che i tumori vanno curati col centrifugato di frutta ed è morta una persona per questo, mi sembra che siamo ad un fanatico, una deriva fanatica che mette in pericolo la salute delle persone e dell'intera comunità. Allora, non sono temi su cui si può scendere in piazza e dividersi tra i sostenitori di Baggio e quelli di Del Piero in nazionale. Grazie assessore, grazie Gallera, mille. Grazie per essere stato con noi. Giusto. E quindi agli ascoltatori giriamo all'800 24 00 24 la domanda se la ricetta della regione Lombardia, che ha recuperato il 10% di bambini non coperti dai vaccini grazie ad un monitoraggio effettuato coinvolgendo i pediatri, se questo si può fare, vi ha convinti? 800 24 00 24. Torniamo tra pochissimo anche per giocare con voi, per chiedervi che cosa vi dà veramente fastidio, che vorreste vietare, anche se sarebbe folle vietarlo. Partiamo dalla notizia di Madrid, dove il sindaco ha invitato le persone a non sedersi a gambe aperte sulla metropolitana per non molestare il vicino. Non è che ha invitato, ha fatto proprio, esiste anche un cartello dove è raffigurato un uomo seduto a gambe larghe. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua. Abbiamo al 349-238-6666 come inevitabile diversi messaggi. C'è chi dice siete due cognomi, citando Rovazzi, ma non dice cognomi naturalmente. Non si può discutere di tutto. Chi non vaccina è un criminale, punto. Teste di C, puntato. Non è che noi non stavamo discutendo di tutto, a dire la verità. Comunque non condivido che non si può discutere di tutto. Io ho detto mille volte che i miei figli ho fatto vaccinare, che sono a favore dell'obbligo vaccinale, che di fronte al calo delle coperture era meglio l'obbligo che stare lì a guardare. In realtà noi abbiamo solo proposto il si può fare della regione Lombardia, che con le lettere inviate ai pediatri, dai pediatri alle persone, alle famiglie non vaccinate, ha recuperato un 10% di copertura vaccinale senza mettere l'obbligo. Senza l'obbligo, quindi è una strada, perché no, intelligente, interessante. E quindi vi chiediamo, ascoltatore, all'800 24 0024, cosa ne pensate? Poi c'è chi ci dà invece al contrario dei servi delle case farmaceutiche. E va bene, andiamo avanti così. Chi proibirebbe gli zainetti in spalla? Perché occupano troppo spazio, forse nei mezzi pubblici, però siamo un po' esagerato. Comunque abbiamo anche chi chiede di vietare l'infradito in città per gli uomini. Ci sono un sacco di idiosincrasie. Chi chiederebbe che la cosa che dà più fastidio è quelli che non chiudono le porte scorrevoli negli scompartimenti dei treni. Andiamo con Silvana, che ci chiama da Firenze. Buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, no, io volevo intervenire sui divieti sull'autobus. Sì. Vorrei che tutti usassero il deodorante, perché è veramente schifoso che sta ad entrare in un autobus. Ma, Firenze, sì, almeno. Cioè, arrivano dei tanfi notevoli. Ma pensi che il deodorante sarebbe sufficiente? Io penso che tutti si dovrebbero lavare a sufficienza. Se questo non lo fanno, ecco una regola, devono profumare. Ovviamente sto scherzando, però è vero che in autobus non si cammina, non si entra. Ma fa benissimo a scherzare, nel senso che è esattamente quello che abbiamo chiesto, nel senso che se qualcuno si fosse messo in ascolto adesso, non è che ci stiamo occupando di veramente voler vietare queste cose, ma è quello che stiamo chiedendo. Vi chiediamo è molto giusto, anzi l'avevo fatto negli esempi, no? Il fatto del deodorante, ci sono... Infatti io l'ho colta subito. Brava Silvana, ci vuole anche un po' di... Sì, prego. Volevo intervenire un secondo sui vaccini. Sì, io sono d'accordissimo sull'obbligatorietà, sì, perché se la gente fosse più responsabile potrebbe anche non essere obbligatorio, visto che non è così purtroppo. È importante che i bambini vengano vaccinati, perché abbiamo debellato tutte le malattie. Va bene. Fino ad oggi, grazie ai vaccini. Grazie Silvana, grazie. Voglio dare spazio anche a Laura da Roma, prima del traffico. Laura, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Allora, io devo spezzare una lancia in favore dei vaccini. Io parlo dei vaccini importanti, mortali, quindi difterite, polio, tetano. Parlo di questi, eh. Sugli altri non mi addentro perché ci sarebbe da parlare molto. Anche l'antipertosse, io sono un medico, sono stata anche medico di base e soprattutto medico ospedaliero. Allora, l'antipertosse nel bambino più piccino di un mese, se un bambino di un mese prende la pertosse muore. Quindi il problema è questo, quando poi si è grandi si sta male, ma e poi c'è tutta un'altra diatriba su mille altri vaccini, ma la polio. Allora, io sono d'accordo con quello che ha fatto la Lombardia, bisogna intervenire tramite i pediatri di base, perché sono loro che debbono accaparrarsi la fiducia delle famiglie. Purtroppo i pediatri di base spesso oggi trascurano un fatto, parlare, spiegare ai genitori la pericolosità delle malattie. Sì, no, beh, spesso capita che tu ti siedi dal medico, il medico intanto sta compilando la scheda al computer, manco ti guarda in faccia, accade, questo accade realmente, e forse non è neanche una colpa, però una responsabilità sì. E ti chiede invece, cos'hai, e se lo sapessi non sarei qua, forse. Va bene, grazie Laura. Insomma, quindi piace la scelta operata in questo caso dalla Regione Lombardia di coinvolgere i pediatri in una forma di dialogo, di convincimento, senza obblighi in questo caso. Ma avete sentito poi l'assessore che ha detto sull'obbligo siamo schierati con il governo. 800 24 00 24. Traffico, torniamo tra un attimo. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Solettino piccino, ogni cosa giace, tutto tace. Che pace, che pace. Senti che meraviglia, senti che meraviglia. Allora, intanto all'800 24 00 24 vi aspettiamo questa mattina per commentare la notizia di Madrid, dove il comune vuole vietare agli uomini di sedersi a gambe aperte sui mezzi pubblici. C'è un diluvio di risposte anche all'SMS al 349-238-6666. Perché sono tantissime le cose che danno fastidio. Il punto è proprio questo, che non si può vietare tutto. Non si può vietare tutto, cioè, e do solamente un le infradito. Siccome sono molto interessato, c'è molta attenzione sui mezzi pubblici. Invece a noi ci interessa ovunque, i divieti ovunque, non per forza solo sui mezzi pubblici. Quindi le cose che vi danno fastidio, sì, va bene, ma anche i divieti più assurdi. Perché forse si sta un po' esagerando, lo andiamo a dire agli amici di Madrid. Intanto, Tulipan, Tulipan. Ecco qua, e allora loro hanno vinto l'Oscar Green della Coldiretti, che segnala sempre nuove tendenze, nuove iniziative nel variegato e vivacissimo mondo dell'agricoltura in Italia. Loro non sono italiani, anzi sono olandesi, e la loro attività è appunto quella dei tulipani. Buongiorno Edwin Koeman, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ciao Edwin, ideatore di Tulipani Italiani, una iniziativa che appunto ha avuto questo qualche giorno fa questo riconoscimento della Coldiretti. L'iniziativa era una piantagione, un campo di tulipani realizzato alle porte di Milano, a Cornaredo, che aveva però una particolarità, Edwin. È un campo di tulipani pick-up. Che cosa voleva dire? No, era un campo di 250.000 tulipani, più o meno un po' più di un ettaro. Sì. Era aperto per visitatori, per vedere i tulipani, anche per raccogliere. Ho piantato 183 varietà, come 15.000 era solo per esposizione, l'altra parte era per raccogliere. Sì. quando i visitatori vengono si possono vedere i tulipani, fare foto, e poi anche ci sono cestini e secchi, si possono raccogliere i fiori, poi facciamo un giornale per fare un bacio. Sì. Sì, questa è l'idea di business. Ecco, ma perché si pagava un biglietto, no? Non era perché siamo un'azienda agricoltura diretta. Sì. Io all'inizio volevo chiedere entrata, però non è possibile perché posso solo vedere prodotti agricoli. Sì. Per questo chiedo due tulipani in anticipo per entrare. Il prezzo di tulipani era 1,50 euro, si pagano 3 euro e poi sono due tulipani gratuito. Ecco. Quindi in realtà non c'è il biglietto, si pagano 3 euro, però nei 3 euro sono compresi due tulipani che uno si può portare a casa. La cosa straordinaria è stato il successo di questa iniziativa, che poi è il motivo anche per cui Coldiretti vi ha premiato l'originalità di questa iniziativa, perché sono venuti in tanti a riscoprire la campagna di Cornaredo. Quanta gente è venuta? Avete tenuto il conto? Sì, era un spettacolo. All'inizio era poco, ma non lo so come posso fare pubblicità, però dopo, penso, metà febbraio, fine febbraio, alcune volte eravamo nei giornali, anche televisione, poi erano tanti pubblicità. Io penso che erano più o meno 30.000 gente in tutto, però era nel weekend, era solo con biglietti che devono comprare online in anticipo, altrimenti erano sicuramente molto di più. C'era il sold out, c'erano le code per venire a vedere i tulipani, a portarsi a casa un paio di tulipani da questo campo a Cornaredo. Un'idea originale, anche un modo per avvicinare le persone alla campagna, sicuramente i cittadini, soprattutto quelli che la campagna non la vivono mai, una forma anche di turismo forse, no? L'anno prossimo ripeterete l'iniziativa? Sì, siamo felici come è andato, sì, sicuramente quest'anno era 250.000, stiamo pensando di fare un po' più grande, forse 4.100. 400.000? Tantissimi! 400.000, sì, poi in novembre tentiamo di nuovo, adesso sono in Olanda per raccogliere bulbi con i fratelli, perché i miei fratelli hanno una grande azienda di bulbi di tulipani. Ecco, ma il famoso bulbo di tulipano, visto che abbiamo un grande esperto, Edwin, cosa ci fa? la signora che ha il bulbo di tulipano sul terrazzo, no? Deve tenerlo, conservarlo per l'anno prossimo? Sì, meglio è quando è sfiorito, sì. In aprile, lasciare fino al giugno, quando tutte le foglie sono gialle, sì. Quando il tulipano è completamente morto, poi raccogliere il bulbo, poi i bulbi è meglio lasciare nel posto un po' freddo, forse sotto casa. Ecco. Perché qui in Italia è un po' troppo caldo nella in frigorifero? In frigorifero è troppo freddo, no? No, questo è troppo freddo. In cantina? La temperatura è molto importante, è veramente molto importante con i bulbi, perché noi in Olanda facciamo, dopo raccogliere prima due, sì, settimane, 34 gradi, poi 25, 22, 20... Bisogna spedirli in Olanda, c'è poco da fare. Se uno a fresco? Sì, bisogna spedirli da voi. No, perché io abbiamo fatto questo giardino per i fiori, non per i bulbi, perché certo. quando hai raccolto i fiori i bulbi non crescono di più. Adesso, per i bulbi non va bene qui in Italia, però per i fiori va molto bene. Va bene, grazie. Perfetto, chiudiamo. Grazie mille. Edwin Coman, ideatore di tulipani italiani, che ha avuto il riconoscimento Oscar Green della Coldiretti. L'anno prossimo quindi puntano a raddoppiare quasi il numero di tulipani a Cornaredo. 800 24 00 24. Con gli ascoltatori ci sentiamo dopo il GR. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Partiamo, andiamo. È la chimica degli elementi, è la scienza, bellezza. Si procede per esperimenti. Questo è un grande giorno da vivere. Io ci voglio credere. Questo è un grande giorno da vivere. Senza limiti, senza fiato. Tutto giusto, tutto sbagliato. Muovere, sento un formico io. Mi devo muovere, sento un formico io. Abbiamo scelto questa canzone di Jovanotti, La scienza bellezza, per introdurre Piero Angela. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. È un grande piacere averlo qua con noi, Piero Angela. Le piace Jovanotti, Angela? Guardi, io la musica non la seguo molto, io sono un jazzista, le canzoni i jazzisti non le amano di solito. Sappiamo. Di standard. Certo, musicalmente è distante, ma è la scienza, perché Piero Angela è un po' l'immagine che abbiamo proprio della scienza spiegata, ragionata, fatta amare, come... Nella maggior parte delle cose che sappiamo, possiamo dire. Derivano da lei. Angela, a parte i complimenti, naturalmente, lei è uscito con un nuovo libro che è una sorta di biografia, attraversa quasi, insomma, i 90 anni della sua... Diciamolo, 90 anni, sì. Ma non li ho ancora. Che però sono 89, infatti ho visto che è del 28, quindi in realtà tutti dicono... Lei ha barato, infatti. Ma no, perché è l'anno prossimo, in realtà doveva uscire l'anno prossimo, poi ho detto, tutto sommato è meglio incartarlo. Così ci siamo tolti il pensiero. Partire subito così, anticiparlo. È straordinario, questo. Che anche a 90 anni comunque è già un anno in anticipo, a buon conto. Allora, un libro che attraversa veramente, Angela, tante vicende. Per esempio, parlando della RAI, no? Lei racconta anche gli inizi degli anni epici della RAI, gli anni in cui entrava Piero Angela, ma c'erano anche Vattimo, Eco. E io le vorrei chiedere se tutti abbiamo la sensazione che quei tempi non torneranno più, che era una RAI meravigliosa, dove lavoravano i migliori. Ma era veramente così, oppure sono cambiati i tempi, per cui oggi un paragone tra la RAI di oggi e quella di allora non ha più senso, secondo lei, che ci lavora ancora? Secondo me noi idealizziamo sempre un po' il passato. Oggi i programmi sono più vivaci, sono migliori, più intelligenti. La RAI di allora era molto impaludata, ma era l'Italia. La RAI, come tutto, riflette il paese, le persone, quindi... Sì, c'era una persona in gamba allora, però per dare un'idea, alla RAI del tempo tutti i dipendenti erano in divisa, cioè i tecnici in camice bianco e le impiegate in grembiule nero con un colletto bianco. Era... È un'immagine bellissima questa, come sempre, sì. Lei in questo è veramente precisissimo, cioè con un'immagine molto precisa noi ci immaginiamo tutto e abbiamo capito perfettamente, cioè la RAI erano tutti in divisa, quindi era servizio pubblico, quindi però era proprio un'altra questione. Però era anche impaludata, ha detto, e quindi diciamo ci aiuta a vedere non soltanto come una mitologia positiva, ma anche coi limiti che poteva avere la RAI. Ma guardi che anche la stampa, se lei va a vedere i vecchi giornali, erano anche poco attraenti da ogni punto di vista. Erano giganteschi. Sì, e poi anche poco informati. Andavano molto sull'ufficiale, sul superficiale. anche la cultura. Io non rimpiango i vecchi tempi. Beh, questo mi sembra straordinario, devo dire la verità. C'era più serietà, sì, anche più onestà in giro. Ecco, questi erano i valori, si veniva dalla guerra e quindi da un'epoca diversa. In questo senso, sì, oggi si tende troppo a voler sempre enfatizzare tutto, distorcere un po' le cose per gratificare il pubblico. L'emotività entra dentro. È talmente però importante. Guardi, senta, sì, nel libro una cosa, sì, che nella vecchia radio mi ha colpito molto. C'era alla mattina alle 11 un collegamento interno tra, sì, tutte le reti, e il capo redattore a Roma, che era Carlo Bonciani, chiedeva alle varie sedi: cosa avete stasera da proporre per Radio Sera? Allora passano le varie sedi, a un certo momento si collega con Genova. Genova, cosa avete? E c'era il dopoguerra, c'era i vari delle navi, aveva ripreso tutta l'attività portuale. E Genova dice: avremmo un varo. E il caporedattore gli fa: Sandro, ve l'ho già detto, il varo interessa se va male. Avremmo un varo. Vede, ormai le cose interessano se vanno male. Però ma... allora c'era uno spirito diverso, ci voleva, si costruiva. Certo, ma avanti, c'era la speranza di andare sempre meglio. Ma tra i vari aneddoti di questo libro ci sono anche delle cose straordinarie che si riverberano sul nostro presente. Per esempio, lei parla di Beppe Grillo dicendo che 20 anni fa gli ha proposto una serie TV con i suoi temi ecologici, però giustamente lei diceva: facciamo una serie TV sui suoi temi ecologici, però li verifichiamo scientificamente. E Grillo rifiutò. Ma sì, io non lo so perché ha rifiutato, perché era un'occasione per lui, perché era stato cacciato dalla RAI, ha fatto una battuta contro i socialisti e non l'hanno più chiamato. E a me divertiva, lui faceva degli spettacoli, teatro tenda, io allora mi occupavo moltissimo di ecologia, ho fatto tanti libri, tanti programmi, e queste cose erano vivaci, naturalmente esagerate, come si può fare un comico, certo, paradossali. Allora dicevo: facciamo 3-4, prendiamo 3-4 spunti registrati durante questi spettacoli e poi facciamo il versante scientifico. Ma io non lo so, forse nel primo tempo era abbastanza favorevole, ma poi invece bisognerebbe chiedere a lui perché non ha voluto. Ma ci dica lei invece perché pensa che non l'abbia voluto. Ma non lo so, forse perché effettivamente se uno poi va a vedere le cose più in modo razionale, è quella creatività che ha la denuncia fatta in un teatro tenda viene in qualche modo, non dico rinazionata perché i problemi erano seri, ma vista in un ambito meno... Si smorza un po' l'effetto, diciamo. Certo, la creatività ingabbiata in una verifica anche scientifica di quello che è stato detto, probabilmente poteva spaventare Grillo. Senta, c'è un altro episodio però che lei racconta, quando le proposero di diventare direttore del TG2 a un certo punto, se ricordo bene, nel 1976. Ma la cosa bella è che quando la contatta un esponente politico per incontrarlo, lei dice: sì, va bene, ma non vengo da voi nella sede di partito, ci vediamo al bar. Mi sembra splendido questo. Sì, perché vede, chi vuole avere indipendenza deve andare a cena con gli onorevoli, certo, e non deve neanche andare alle sedi dei partiti. Poi massimo rispetto per tutti, però ognuno fa il suo lavoro. Poi non accettò comunque di fare il direttore, come mai? Ma lo spiego nel libro, per una serie di ragioni, perché allora c'era proprio una lottizzazione scientifica che ognuno doveva fare, presidiare una certa area, e allora non era roba per me. E lei non ci poteva stare. Sì, in più, se posso... Devo dire che in tutta la mia vita ho avuto una fortuna straordinaria di poter lavorare tranquillamente per conto mio, senza che nessuno mi dicesse cosa dovevo fare o non fare. Prima come corrispondente per 13 anni all'estero, poi ho avuto una breve esperienza come conduttore di telegiornale, un telegiornale molto innovativo, dove c'era così, pim bum bam, si dove tutto è, doveva essere innovato, la libertà, eccetera. E poi nei miei programmi di scienza, dove io presentavo il mio uovo, cioè i miei documentari, andavo in onda. Ma tra le varie motivazioni che lei ha dato per cui non ha accettato la direzione di un TG, ce n'è una bellissima che dice: io a me interessava occuparmi non di 10 notizie al giorno, ma di una notizia in un anno, ovvero approfondire le cose importanti, che mi sembra una spiegazione molto precisa. Alla fine, siccome insisteva molto questo personaggio, dicendo: guardi, lei è la persona adatta per fare così un'innovazione, allora ho detto: guardi, io accetto per la patria a una condizione, che ogni settimana faccio una conferenza stampa e dico chi mi ha telefonato e cosa mi ha chiesto. Beh, era un po' troppo anche per la politica di allora. Poi raccontiamo tra poco, dopo il traffico, di quando, guardando Mike Buongiorno, Piero Angela in televisione si è convinto ad interessarsi a tutta questa questione del paranormale, delle pseudoscienze. Poi ha scritto dei libri, naturalmente, poi il CICAP, eccetera eccetera. Oggi si parla di fake news. 800 24 00 24 tra poco. Va bene, non potevamo non dedicargliela, Angela. Tra l'altro diciamo anche che in questi giorni sta lavorando, perché sta registrando una serie di Super Quark dal 21 giugno, giusto? 9 settimane. Sì, esatto. Quindi ritorniamo. Esatto. Come è instancabile. Instancabile, come molte estati succede, quindi questo appuntamento lo volevamo inesorabile, lo volevamo ricordare. Senta, lei a un certo punto, grazie a questa grandissima capacità di divulgazione scientifica, è diventato poi negli anni quasi un paladino della scienza nel smascherare il paranormale, le pseudoscienze, il CICAP, no, il comitato che verifica ogni anno le affermazioni sul paranormale, eccetera eccetera. Però tutto questo lei racconta nella sua biografia, Il mio lungo viaggio, Mondadori, lo ricordo, il libro che ne dicono proprio in questi giorni, ha una data di inizio. Lei stava guardando Mike Buongiorno in televisione. Ah sì, perché c'era quel programma di successo Rischia Tutto, dove c'è un concorrente, dottor Inardi, ricordo il nome, una persona molto simpatica, un medico, che si presentava su Mozart e raccontava un po' le cose sue. E lui aveva creato un circolo, un centro di studi sul paranormale a Bologna. E anche Mike Buongiorno raccontava queste meraviglie, che la telepatia, la chiaroveggenza, la psicocinese, eccetera. E io dico: ma scusate, questa roba qui qualcuno l'ha dimostrata. Cioè lei si rese conto che questa cosa cominciava a far presa e quindi lei si prese la briga di cercare di dimostrare la veridicità di tutto questo. Diciamo, no, non era una caccia alle streghe, era semplicemente il fatto che stava diventando un nuovo ramo della scienza. Mm. E allora, con tutte poi le conseguenze anche del sottobosco di questo tipo di attività, le conosciamo bene, dagli indovini, maghi, veggenti, guaritori, sì, eccetera. E a quel punto disse: allora, beh, facciamo qualche verifica, aspetta un attimo. E fece un programma con dei documentari, 5 puntate, che ebbe uno strascico di polemiche e di attacchi a personali anche a me. La sera al garage strisciavo contro il muro per non farsi riconoscere. Sento le ombre. Senta, no, Piero Angela, ma alcune persone sì, fanatiche. Secondo lei c'è sempre stata, mi scusi, questa tendenza ad innamorarsi a cercare soluzioni alternative, scorciatoie, la pseudoscienza, il paranormale, gli astrologi, i santoni, oppure oggi qualcuno incolpa molto internet e il web di diffondere fake news e false illusioni? Sì. C'è più oggi o allora, secondo lei? Il pensiero magico c'è sempre stato. In passato era quasi dominante anche. Pensiamo a tutte le fatture che si facevano, era una cosa. Oggi è diventato più, come dire, scientifico, nel senso che si presenta con i nuovi farmaci, come per esempio l'omeopatia, la si vende in farmacia, oppure l'oroscopo che vediamo in televisione, fatto col computer. E poi, come diceva, internet è uno strumento straordinario che veicola di tutto, è un fiume dove viaggiano tutte le imbarcazioni possibili e immaginabili. E quindi chi ha questa tendenza a voler vedere le cose in modo straordinario, oppure perché ha dei problemi di salute, è attratto da tutte queste cose. Certo. Intanto le voglio dire che ci sono molti ascoltatori che ci stanno scrivendo messaggi, vorrebbero stare tutta la mattina ad ascoltare Piero Angela. Un super grazie per tutto, Quark, Super Quark, Viaggio nel Cosmo, insomma ricordano tutti i titoli dei suoi innumerevoli programmi. Quindi queste sono, diciamo, le emozioni degli ascoltatori. Senta Angela, ma c'è qualcosa che invece lei fa di irrazionale, quei gesti scaramanti, tipo spostare il tappetino davanti all'ingresso di casa, non calpestare le righe per strada, qualche gesto ce l'ha anche lei o no? No, veramente, no, capisco che queste sono piccole manie innocenti, sì. Però alcuni, guardi, io adesso non posso citare le persone, le situazioni, perché sarebbero riconoscibili, ma ci sono dei personaggi che, come dire, quasi scrivono, è meglio che non ne parli, perché altrimenti... Ha paura di dire qualcosa di cui si potrebbe pentire. Però ecco, diciamo che nel libro i nomi ci sono, e come, ci sono nomi e cognomi. Quindi se prendete il libro, cari ascoltatori, trovate un sacco di cose interessanti. Fra l'altro lei tempo fa, Angela, scrisse un altro libro che era A cosa serve la politica, giusto per rimanere in tema. Adesso sono passati un po' di anni, ma la domanda è ancora attuale. A nulla? Qual è la sua risposta? Guardi, quello era un libro mica polemico, era un libro, come dire, razionale. Partendo da questo semplice concetto, la politica nel corso della storia di secoli, di millenni, non ha mai prodotto ricchezza. Tutti sono rimasti poveri, analfabeti, malati. E allora come mai si pensa che la politica riesca a fare questo? Ci si dimentica che tutta la ricchezza che è stata prodotta è quando le macchine e l'energia hanno cominciato a entrare prima nei campi, poi nelle officine, poi nella società. Quella è stata la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e a quel punto anche gli oggetti costano infinitamente meno del passato, la produzione in ogni campo si è magicamente moltiplicata, e allora il compito della politica è di gestire bene tutto questo, come anche dell'economia. Anche l'economia non ha mai prodotto ricchezza. Il compito allora è distribuire la ricchezza. Alla base di tutto c'è la gestione dell'innovazione, dell'educazione, della capacità del merito, della capacità, cioè di tutti quei valori che in realtà sono calpestati o ignorati o messi da parte o penalizzati. Lo vediamo del resto anche nell'informazione, nei dibattiti, quando mai si parla di valorizzare il merito o di fare un'educazione che sia perlomeno alla pari dei grandi paesi con i quali dobbiamo competere. Ecco, questo è il senso di questo libro, che rimane, secondo me, valido, purtroppo, forse... Purtroppo ancora valido. Ma noi, di queste cose io non sento mai dibattere, non solo i politici, ma anche la stampa, la televisione. Senta, le voglio fare un'altra domanda, Angela, che portandola sull'attualità e sul tema dei vaccini, lei ha già detto un po', cioè, più volte cosa ne pensa, però mi piacerebbe, sogno questa cosa, domani c'è una manifestazione nazionale a Roma, vedremo quante sono, chi sono queste persone che sfilano in nome di, diciamo, rifiutano l'obbligatorietà della vaccinazione. Sogno un dialogo tra lei e queste persone, no? Cosa lei con la sua capacità... non dico di convincere, ma insomma di spiegare, di ragionare, di riflettere con pacatezza, non è sicuramente una persona da muro contro muro, ma è una persona di fermi principi. Cosa dice a queste persone? Ma dico, per esempio, che uno può curarsi con quello che vuole. Ci sono persone vegane che bevono la pipì e la fanno bere anche il proprio figlio, questo è già diverso. Ma sui vaccini è diverso. Uno non è che ha le conseguenze solo per sé, provoca delle conseguenze per gli altri, perché aumenta la circolazione dei rischi di malattie, e quindi non può reclamare un diritto che danneggia la comunità. Gli scienziati sono molto preoccupati perché stiamo scendendo sotto certe soglie di vaccinazione che possono rischiare... Che è la copertura del 95%, ne abbiamo parlato prima. È anche legittima difesa di chi dice, voi non potete fare, se volete buttare dalla finestra, buttate dalla finestra, ma voi non è che poi trascinate anche noi dietro. Grazie Piero Angela, grazie per essere stato con noi, buon sabato. Grazie mille. E ricordiamo il libro, Il mio lungo viaggio, di Piero Angela Mondadori in edicola in questi giorni, è diciamo, lo spunto di questa chiacchierata con lui, dove si raccontano praticamente insomma, quasi due secoli di storia. No, se ne racconta uno, se ne racconta uno, però passando per due secoli. Per due secoli. Beh, considerando quanto sono cambiate le cose, sono veramente due secoli. Grazie Piero Angela, grazie buona mille. Giornata. Allora, gli ascoltatori 800 24 00 24, vi aspettiamo per stare con noi tra poco, dopo la pausa, anche per giocare con noi, per sentire i vostri divieti più assurdi, le vostre idiosincrasie sui mezzi pubblici, in particolare perché non abbiamo chiesto a Piero Angela che cosa gli dà fastidio quando va sui mezzi pubblici, ma insomma, la notizia di Madrid l'abbiamo detta stamattina, è il sindaco che invita a non sedersi sui mezzi pubblici con le gambe troppo larghe per non molestare il vicino. Forse c'è un eccesso di divietismo. 800 24 0024 tra poco con Cloud Me Up. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è Una musica può fare di Max Gazzè. Come sapete questo è il nostro Si può fare in musica, è una canzone che ci è stata suggerita da Andrea da Bergamo per il potere benefico della musica. Come sapete noi siamo sempre in cerca di dei si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei compositori, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, così noi la facciamo sentire e la mettiamo sui nostri social. Potete inviarci i vostri si può fare in musica alla mail sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili Facebook sipuofare-radio24 oppure Twitter @sipuofare24, oppure lo potete fare anche sui nostri account personali. Anzi, ne approfitto per ringraziare tutti quelli che sulla mia pagina personale di Facebook mandano dei consigli dei si può fare in musica. Siccome siete tantissimi, lentamente ovviamente verrete tutti defluiti. Verrete tutti citati lentamente. Quello che voglio dire è che li leggiamo, li leggo assolutamente, li giro alla redazione, semplicemente che ci sono anche dei tempi tecnici e ci sono tante richieste. Comunque sui nostri account personali, appunto la mia pagina di Facebook oppure il mio Twitter che è @CarloGabardini. Eccoci qua, c'è anche il mio @AleMaurizzi, siamo ricchissimi di social, da tutte le anche dalle orecchie e poi c'è anche Snapchat, c'è che Snapchat. Mi fa molta paura, lo dico sempre. Allora, esatto, che lo sto usando meno perché c'è Instagram che in realtà ha copiato le stories, insomma un giorno magari ne parleremo anche. Faremo un approfondimento su questo. Spartak da Rimini e Marco da Piacenza sono i nostri ascoltatori in linea, li chiedo di pazientare ancora un po', partiamo con Cloud Me Up. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela.

Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Ci chiede al 3422386666 come si fa ad associarsi al CICAP, perché evidentemente il messaggio di Piero Angela è stato incisivo, però insomma basta che andate credo sul sito. E vi iscrivete. Allora, con questa travel di Alexandros parliamo proprio di viaggi con Alessandro Agostinelli. Buongiorno, benvenuto Alessandro. Buongiorno a voi. Buongiorno. Organizzatore del Festival del Viaggio che si tiene in tre sedi, Livorno, Firenze e Prato. Che già mi sembra una cosa giustissima, no? È il Festival del Viaggio e si viaggia. Anche a Palermo? Firenze, Palermo, Livorno e Prato. Ma che meraviglia. No, manca Firenze. Ho detto Firenze, Palermo, Livorno e Prato. Allora, facciamo così Alessandro. Presentati tu. Qua, dove, quando, come e perché? No, va bene. Il Festival del Viaggio è alla 12ª edizione e è fatto quasi sempre, tutti gli anni, a Firenze e a Palermo. Poi quest'anno abbiamo deciso queste due micro fughe, una a Livorno come anteprima, c'è stata il 6 giugno in mezzo al porto turistico, e l'altra a Prato al Centro per l'Arte Contemporanea Museo Ricci. Perfetto, è così abbiamo detto. Naturalmente poi trovate tutto su internet. Noi Alessandro però ne approfittiamo per chiederti, siccome ci sono tante cose curiose quest'anno, il tema è borghi d'eccellenza, quindi sui borghi possiamo parlare tantissimo, ci sono tante cose belle anche in cui pure noi ci innamoriamo sempre. Qualche consiglio particolare per dei viaggi particolari? Per esempio a me ha colpito la passeggiata a piedi nudi alle Cascine, la scalzeggiata. Io questa sì, fantastica. La farei. Allora, siccome in città spesso noi, come dire, accumuliamo una serie di stress notevoli, alle Cascine, ogni città, come Firenze, alle Cascine, molte città hanno il loro parco urbano o molti parchi urbani, noi consigliamo questo e lo facciamo, lo mettiamo in atto domenica mattina, domani alle 11.30, di togliersi le scarpe e andare a camminare a piedi nudi, chiaramente non solo sull'erba ma anche sui piccoli sentieri sterrati, per provare con la pianta del piede vari selciati, uno più morbido, uno più duro. Questo fa molto bene sia al piede, alla circolazione e tutto quanto. Chiaramente non abbiamo più i calli per fare questo, Alessandro, perché un tempo i nostri genitori avevano il callo e camminavano scalzi, noi invece però la sensibilità c'è, no? Anzi, acuita. Può fare un po' male, poi alla fine dopo, come dire, una sgambatina di 50 metri va tutto meglio. Voglio le foto però, voglio le foto della scalzeggiata, postatele sui vostri profili perché vogliamo le prove che l'avete fatta veramente. E qualche altro suggerimento? Siamo a giugno, ormai si stanno già organizzando, anzi. Quelli bravi hanno già organizzato, hanno già tutto. Fatto siamo tutto. Te ed io, Alessio, che io non abbiamo, Carlo, ancora... Non abbiamo esatto. ancora prenotato nulla. Dove andiamo? Cosa facciamo? Ma dove volete andare? Lontano o vicino? Spendere poco e lontano. Spendere poco e lontano è difficilissimo. Difficile. Invece potrei dire che per spendere poco e lontano c'è la Costa d'Avorio. Con Kanaga si va in questo paese che è pochissimo conosciuto, in realtà con meno di 1500 euro uno può andare a scoprire uno dei luoghi meno conosciuti e, come dire, più interessanti dell'Africa. È un posto tranquillo adesso? Possiamo stare abbastanza tranquilli? È un posto tranquillissimo, affaccia sul Golfo di Guinea e quindi ci sono spiagge fantastiche, savane aride quasi desertiche, foreste lussureggianti nel centro e, diciamo, è una nazione che offre veramente tanto, dalle feste tradizionali alla visita dei villaggi degli allevatori Peul, ci sono gli spiriti sui trampoli, Yaruba, i ponti di liane, è veramente un posto molto interessante perché unisce, diciamo, tradizione e modernità in maniera fantastica, quindi io vi consiglio la Costa d'Avorio. Va bene, perfetto, ce la segniamo, io me la segno, sicuramente mi mancava e quindi chiudiamo qua anche la puntata di oggi, non prima però di avere assegnato alla nostra ascoltatrice Silvana da Firenze il premio di oggi con la sua telefonata sulla possibilità di vietare l'ascella pezzata sui mezzi pubblici, ho obbligato tutti a utilizzare l'obbligatorietà del deodorante. Il deodorante, perché se a Madrid vogliono obbligare a sedersi con le gambe accavallate, allora possiamo fare anche questo, c'è posto per tutti. Noi ci risentiamo domani con Si può fare 8:30-10. Io ringrazio Andrea Piana, Claudio Schiattone, Carmelo Lucella oggi in regia. Ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini. A domani e ciao anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.